ragazzi, complicati gruppi diversi, in fondali rossi di vino immersi, verso la possibilità di sporgersi dall'oblio di un amarsi o non amarsi, amarsi, non amarsi, amarsi tu. Se fossi un animale saresti un coccodrillo, non per il profilo rettiliano, ma la compulsiva maniera di mordere chi ti sta vicino, vorrebbe solo il tuo bene. Respingere tutti non accettare.